Boh, allora, iniziamo questo primo momento di incontro collettivo. No, il microfono è per la radio. Stiamo tutto trasmettendo in una radio online, quindi serve per quello. La voce non si sente, cioè si sentirà così. E boh, iniziamo questo primo momento di incontro collettivo che, insomma, di Unifree. Faccio una brevissima cronostoria di Unifree, una presentazione generale. Allora, innanzitutto Unifree è questo insieme di singoli studenti dell'Università di Pavia che da pochissimi mesi hanno iniziato a ritrovarsi. Le motivazioni alla radice, alla base di questo nostro incontrarsi sono state principalmente una critica, un insieme di critiche a come è stata portata avanti la riforma Moratti a livello dell'università, ma anche per la precedente riforma, quella di Zecchino-Berlinguer, e quindi è una critica a un intero sistema di trasformazione del meccanismo dell'università, come lo stiamo vivendo, come lo stiamo attraversando noi in questo nostro periodo di studi qua a Pavia. E come dicevo prima, Unifree non è né un collettivo, né uno spazio chiuso, è un insieme di singoli, di individui, anche appartenenti a realtà diverse, che hanno avuto traiettorie personali, politiche, sociali, culturali diverse, e che hanno deciso di ritrovarsi appunto perché in questo momento stanno studiando qui e stanno vivendo gli stessi problemi. Le motivazioni non sono solo a livello macro, come forma di critica in senso generale a quella che è stata appunto la riforma Moratti, la precarizzazione dell'università, la creazione di un meccanismo di crediti, eccetera, ma anche proprio a come viene vissuto poi nel micro, quindi qua a Pavia, la condizione dello studente. Questa forma di vivere l'università in un modo nuovo, in un modo che non ci appartiene, in cui la conoscenza molto spesso è decisamente subordinata a degli altri meccanismi che la determinano, che la macrodeterminano, e quindi trovarci per provare a proporre dei percorsi alternativi gestiti da noi di formazione e di creazione in una nuova università. Questo più o meno sono gli obiettivi generali. Per fare questo ci siamo divisi da poco in molti singoli gruppi. Questi gruppi si occuperanno di temi abbastanza diversi, ma tutti si relazionano in qualche modo all'università. Si parlerà sia di precarietà a livello appunto di condizioni studente-lavoratore, semplicemente di lavoro, si parlerà di conflitti, si parlerà di migranti, si parlerà anche di traiettorie personali di vita per quanto riguarda le scelte alimentari e chissà che altro. È un percorso totalmente aperto. Questo vuole essere solo l'inizio, non è che un inizio, è un percorso condiviso. C'è una mailing list che è molto partecipata in questo periodo e speriamo che sia un inizio positivo e che possa andare avanti e che possa svilupparsi e creare delle alternative nel modo di vedere, di intendere e di vivere la nostra università. E adesso parliamo dei gruppi, adesso non so chi inizierà come primo gruppo a presentare. Vai. Laura e gruppo conflitti. Allora, il gruppo di studenti che si occuperà della tematica dei conflitti intende focalizzare l'attenzione sui mutamenti socio-economici e geopolitici che interessano l'area medio orientale. In pratica l'obiettivo è quello di avere un approccio critico a questi cambiamenti che appunto interessano tutta l'area del Medio Oriente a partire dalla caduta del regime di Saddam alle elezioni in Iraq, dal cambiamento di leadership in Palestina, quindi la morte di Arafat, allo sgombero di Gaza, dai mutamenti, dalla crisi, diciamo, del regime Battista in Siria e lo sgombero dal Libano, così come queste nuove relazioni economiche che ci sono tra il re Abdallah II di Giordania, Mubarak e Israele. Cioè, l'idea di base è quella di sviluppare un dibattito critico per capire se questi mutamenti, che da molti vengono intesi come l'inizio di una nuova era democratica, siano effettivamente compatibili con il rispetto del diritto di autodeterminazione dei popoli e col rispetto dei diritti civili e politici. L'idea è quella proprio di capire se quest'idea di democrazia occidentale, che sia strutturata intorno a un modello filosofico individualista, filosofico e morale basato appunto sull'individuo, sia effettivamente esportabile e applicabile ad altre società in cui appunto l'identità non è tanto quella individuale, bensì è quella collettiva. Quindi Quindi noi intendevamo organizzare il nostro lavoro attraverso dei seminari appunto gestiti un po' da noi studenti con interventi di docenti e comunque in cui l'idea è quella di stimolare il dibattito appunto tra tutti noi e nuovi venuti. E un altro gruppo è quello invece dei migranti. Il gruppo Immigrazione Migranti appunto collaborerà col gruppo Conflitti perché siamo convinti che queste due aree non possono essere scisse a livello metodologico. La metodologia proprio del nostro gruppo di studio sarà quella di gruppi di approfondimento che si concluderanno con delle tavole rotonde a cui faremo partecipare degli enti, delle istituzioni, non solo l'università, ma anche per esempio esponenti del sindacato piuttosto che di altri coordinamenti proprio di immigrati. Gli approcci saranno quattro: sarà un approccio storico che cerca di connettere il fatto che l'immigrato è in primo luogo un emigrato e quindi un approccio storico che analizza il rapporto colonizzazione-decolonizzazione con sensibilità per quei gruppi nazionali di immigrati che vengono dalle nostre ex colonie, con una sensibilità maggiore visto che a Milano abbiamo in questo periodo un attivismo di una componente eritrea che ha occupato e che quindi potrebbe essere contattata. Poi ci sarà l'approccio macroeconomico che vede appunto nella divisione internazionale del lavoro una delle cause oggettive di questi spostamenti di persone e di popolazioni intere e in questo caso ci si collegherà anche al rapporto col sindacato e alla precarizzazione delle condizioni di lavoro anche degli italiani. E ci sarà l'approccio più sulla soggettività degli immigrati, quindi un'analisi delle loro lotte politiche in Italia con la partecipazione dei coordinamenti che da anni ormai stanno lottando per rivendicare i diritti. In questa sede avremo anche magari una maggiore attenzione per l'aspetto giuridico, ma non solo, quindi aspetto giuridico e aspetto politico della rivendicazione. E in ultimo, ma non per questo meno importante, l'approccio dell'attenzione al territorio, che è già stato sviluppato da alcune, per esempio Ferlo, anche altre persone hanno appunto contribuito attraverso una ricerca in università che ha visto porre un po' in luce l'attenzione a quelle situazioni del territorio pavese che vedono occupazioni a scopo abitativo di immigrati o comunque cercare di coinvolgere anche una società che sembra insensibile, che sembra non voler vedere le persone che invece sono presenti in tutti ormai i settori anche lavorativi qui a Pavia. E quindi coinvolgerla per sensibilizzare e quindi interagire e trasformare l'ambiente. Ecco, questo è un po' quello che ci siamo un po' prefissi e chiaramente è un percorso che si farà come tutti gli altri gruppi per strada, insieme, no? Allora, ciao a tutti, io sono Pier, parlo come esponente del gruppo di lavoro Alimentazione Ambiente. Diciamo che la nostra idea è quella di parlare delle varie alternative alimentari possibili, sostenibili, e come queste possono influire da un punto di vista economico e non solo, anche politico, su degli equilibri. Sia del rapporto uomo-natura, tanto quanto di sostenibilità appunto nel tempo. Quindi l'idea era quella di partire da un'analisi del modello agricolo e alimentare direttamente che si è, come dire, affermato prima negli Stati Uniti, poi successivamente in vari paesi occidentali. Che ripercussioni ha avuto questo modello, questa politica agraria, quindi questo modello agricolo, su le ex colonie piuttosto che sui paesi in via di sviluppo o semplicemente nei giardini di casa dei paesi sviluppati? Alludo ovviamente all'America Latina per gli Stati Uniti. Quindi l'idea è sempre quella di dibattiti, assemblee, tavole rotonde dove ci si può confrontare, dove si possono, come dire, discutere queste tematiche, i problemi ad essa correlati, quali la sostenibilità di modelli di dieta, di alimentazione, che diciamo rifiutano in toto gli animali e gli alimenti da essi derivati, quindi problematiche dal punto di vista della sostenibilità sul nostro corpo, sul corpo umano, e risvolti economici. E come dire, differenze anche dal punto di vista della, della fame nel mondo, nel senso che si può analizzare il maggior costo in termini di ettari che alcuni tipi di alimentazione hanno in confronto ad altri che per lo più sono diffusi nei paesi in via di sviluppo. Dunque, questo è l'idea, il cammino che si vorrebbe intraprendere. Ovvio che più il gruppo è condito anche di idee differenti, più è possibile un confronto, un arricchimento di tutti, non solo del singolo. Non so se ci sono altri gruppi di lavoro. Ecco, Deggio. Ciao, io sono Deggio di Scienze Politiche. Mi siedo. Allora, io in quanto partecipante del gruppo artistico volevo dire qual è la nostra idea di università. Noi abbiamo creato questa cosa in concerto con gli altri gruppi di Unifree, perché pensavamo che comunque l'università che abbiamo in mente noi dovrebbe essere una cassa di risonanza, un contenitore per tutte quelle varie forme di arte. Con arte, cioè dire artistico, si può intendere tutto e niente. Noi l'idea di arte che abbiamo in mente è proprio qualcosa di aperto a qualsiasi proposta che ci arriva, e comunque come forme di arte, cioè come la mostra che c'è oggi esposta, pensiamo a un'arte minimalista che prende il passo dalla street art, dall'arte urbana, e pensavamo appunto che l'università dovesse diventare, attraverso la richiesta di alcuni spazi, come quest'aula lo dimostra oggi, se si chiedono le cose qui, gli spazi più che altro ce li danno, noi dovremmo riempirli di tutto quello che viene portato dall'esterno, sia da studenti dell'università che da realtà esterne. Quindi nella pratica, questo era tutto il preambolo, la pratica, noi stiamo portando avanti un progetto che è già abbastanza strutturato, che è quello che sta alle vostre spalle, che volevamo portare avanti una serie di incontri sui viaggi per appunto parlare insieme, come qui stasera, magari anche in maniera un po' più informale, di varie metodologie di viaggio differenti, che tutte sulla falsariga comunque del turismo responsabile. Gli esempi di stasera sono tre ragazze che hanno esposto le loro foto di viaggi in Malawi, Kosovo e Palestina, fatti attraverso delle associazioni, con l'aiuto di delle associazioni, e in futuro vorremmo portare avanti altri esempi di tipologie di viaggio. Per dire, c'è gente che viaggia da sola, c'è gente che ha viaggiato e vorrà esporre di viaggi con gli scout o con delle associazioni cattoliche o religiose, o anche gente che ha viaggiato attraverso i canali dell'università come gli stage e queste cose. Quindi questa è la nostra prima proposta che volevamo portare. Poi nel calderone ci sono un po' di cose che sono tutte work in progress, che sarebbero sicuramente toccare il tema delle videoinstallazioni, fare delle videoinstallazioni quantomeno un minimo permanenti, se ce le daranno la possibilità in università, e con queste videoinstallazioni appunto sviluppare un rapporto più critico con la televisione, e quindi toccare quel tema, e unendosi anche al tutto il mondo della controinformazione, di indie media, di usare internet in maniera consapevole e intelligente. Un altro progetto che c'è in corso è l'istituzione di un laboratorio di sviluppo di fotografia attraverso del materiale che fortunatamente una nostra amica ha già, e questo è ancora un'idea, bisogna vedere prima se c'è gente interessata a usufruirne prima di tutto, e sarebbe appunto un laboratorio di sviluppo fotografico libero in cui fare corsi di sviluppo e poi anche usufruirne a prezzi molto diversi dai laboratori che ci sono in giro. Poi niente, tutto questo volevo sottolineare come ultima cosa, per concludere, che siamo un gruppo molto ampio già adesso, perché dire gruppo artistico appunto è molto ampio come campo rispetto ai migranti o il problema delle politiche alimentari. Quindi noi volevamo costituire dei piccoli microgruppi più tematici, magari sulla fotografia o sulla poesia, e quindi aspettiamo di essere ancora più numerosi per ritrovarci, magari adesso non sappiamo ancora quando, però ritrovarci in un secondo momento e dividerci a nostra volta in gruppettini un po' più piccoli, più pratici e di interesse specifico. Grazie. Adesso. Allora, nel relazionare rispetto al gruppo precarietà, io intanto invito Andrea Fumagalli a venire qui vicino a me, perché poi così ci potrà esporre rispetto alle questioni che cercheremo di porgli. Anzitutto dico che il gruppo precarietà nasce anzitutto da un'esigenza soggettiva di chi lo compone rispetto alla propria esistenza, alla propria condizione, anzitutto in quanto studenti universitari e quindi individui che vivono quotidianamente una condizione di precarietà dentro a questo spazio rispetto alla questione, ai nodi che si vengono a porre, anzitutto rispetto ai tempi e agli spazi che quotidianamente noi viviamo qua dentro, rispetto alla criticità, rispetto ai percorsi di formazione a cui veniamo posti di fronte, e allo stesso tempo rispetto a quella che può essere intesa come una precarietà diffusa all'interno di uno spazio urbano, metropolitano, quello dentro al quale Pavia fa parte materialmente, in un ambito invece nettamente più legato alle tematiche del lavoro e del reddito. Alcuni aspetti quindi ci interesserebbe in modo particolare andare a toccare nel lavoro di questo gruppo. Anzitutto ci interesserebbe andare a capire, in quanto appunto studenti universitari, anche un nodo rispetto alle transizioni economiche che stanno avvenendo nel nostro paese e a livello globale da alcuni anni. Anzitutto la transizione dal capitalismo industriale a quello cognitivo, e per cui il ruolo che la socializzazione dei saperi ha nei processi produttivi, e tutta una serie di conseguenze che da questo fenomeno discendono: la femminilizzazione del mercato del lavoro, la relazione che si viene a instaurare tra il capitalismo cognitivo e anche gli aspetti legati al migrariato e ad altre forme, diciamo, potremmo dire residuali, piuttosto che legate ad altri periodi storici, e la rappresentabilità di questi percorsi di auto-organizzazione che, come pratiche di resistenza ai processi di precarizzazione del lavoro, vengono a manifestarsi. Per cui, da un punto di vista metodologico, ci interesserebbe sicuramente che il nostro lavoro fosse un processo. Nel momento in cui si vede nel fine un pubblico, la costruzione di seminari, di momenti aperti, ci sia comunque un lavoro da parte di chi fa parte di questo gruppo che vada a scandagliare questi temi che abbiamo identificato. E sull'altro versante, che poi ci sia la possibilità appunto di rendere più pubblica possibile il frutto di questo tipo di lavoro che c'è a monte. Detto poi in due parole semplici, vedendo la giornata di oggi un po' come un aperitivo, direi, di quelle che sono le attività che globalmente come Unifree abbiamo pensato, comincerei magari col porre alcune domande ad Andrea Fumagalli, e in particolare proverei a cercare di chiedergli di illustrarci alcuni di questi aspetti che già ho brevemente citato. In particolare oggi, nel momento in cui appunto ci ritroviamo in questo momento, dopo un percorso che abbiamo già iniziato, ponendoci delle domande rispetto a quelle che sono state le riforme universitarie precedenti e il DDL Moratti approvato recentemente, come ci si può relazionare da un punto di vista chiaramente di studenti, ricercatori e docenti, cioè gli attori sociali che poi materialmente vivono la quotidianità delle relazioni sociali dentro l'università, e una progressiva precarizzazione da un punto di vista delle condizioni contrattuali per quanto riguarda soprattutto la ricerca, una invasività dentro gli spazi dell'università del privato, del capitale privato, e una conseguente trasformazione anche dei modi di veicolazione dei saperi dentro l'università, fondamentalmente cercando di capire come, appunto, con i nostri esperimenti di autoformazione si possa cercare lungo quali binari provare a costruire dei momenti di liberazione dei saperi, di socializzazione altra dei saperi rispetto a quelle che ci vengono normalmente imposti dall'università azienda.